canale 10, cambio. Sola. Ebbe tristezza, ebbe papparetta. Attento, cambio. Cambia. Oh, adesso mi cambio. Io mi sono cambiato già, panolone con me, quello che era... No, quello della pampe. Ah, io ho la caldarella dietro, che regge di più, la catafin di ferro. Ma dove ti dovevi attaccare la brittella? La brittella me l'ha attaccata, allora. Ah, allora, va bene. E mi sai che non prendi più. E noi siamo quasi di vita. Neanche io ho sentito nessuno. Vabbè, sono tutti in letargo. Io mi ho finito poco fa. Io sono impegnato ancora. Piano piano, quando mi libero allora sarò più presente. Gappa. Gappa gappa, cambio. Non è mongoletto, ci avete. Ora, ora. Che tu vuoi giocare? Ora, ora, ora, ora. Ora. Tu stai fermo. Ecco qua, qua. Ora. Ecco qua, qua. Per una delle carecca. E ci torniamo appena. Ora, ora, ora, ora. Ecco qua, qua. Gappa, gappa, gappa, gappa. Gappa, gappa, gappa. Niente da fare. Così è stato. Hola. Dove stai andando, Luca? Alla brittella stai andando. Luca, alla brittella stai andando. Così è. Hola, hola, hola. Luca, alla brittella stai andando. Oh, Luca. Marcolino Condo, ci sei, Marcolino Condo. Tutti molti gente che si... Beh, per carità. Galaxy Saturn Eco Turbo. da 100 watt, e così sono a 100 watt, anzi 90, e così sono a 10 watt, e così sono a 100 watt. Infatti, vabbè, ti c'è l'antenna dentro casa. La lascio appena appena di ecco così. Non le fa niente, no? Io vabbè, beh. Se no è poi troppo alto. Proprio un pelino glielo va. Con l'MB più 5 di tavola. E questo è quello che c'avevo, non usavo mai. Qua l'ho attaccato perché ha 220 e potenza ne ha, c'è una bella ricezione, la radio è buona e ce l'abbiglia anche come devo chiamare. Già va bene. Avanti per un controllino, chi è? Non ho capito, stai modulando da Olmedo, così è detto. Santiago 7, radio 5, a me come mi ascolti? Non ho capito, va bene, Claudio Sparviero da Sassari, comunque buonasera. Aspetta che ho tolto il l'ecco che non mi piace. Vediamo appena appena più di gas. Cosa hai detto Luca? Qualcosa hai detto Luca? Va bene, dai. Un attimino di bianco per me, già torno subito, ok? Ci sentiamo dopo Luca. Uno da Olmedo mi sembra. Adesso sto guardando un messaggio sulla zappa. Bisogna dirlo a Marco. Marco ci aveva un'antenna che aveva dato a Natalino, tipo bazooka. Non lo so se gli ha restituita. Bisogna dirlo a Marco. Almeno di non ne costruisco antenne. C'è il mago che costruisce le antenne, l'amico tuo. Dillo a lui se te la costruisce una. Per forza la tira stazionale, se no non c'ha spazio quell'antenna, non c'ha massa, per forza ti fa così, vuole messa fuori per irradiare, capito? Ma magari va bene anche quella lì messa fuori con un cavo un po' più lungo, se ti serve qualche spezzone di 58 ce l'ho, capito? Una staffa attaccata a qualche ringhiera, a qualche parte, esce meglio di tenerla dentro casa sicuramente. Oh pirata! E Lu, se vengo io li affatti, non ti preoccupare. Pure a casa di Cacheduno non si poteva piazzare l'antenna, invece l'ho già piazzata io. Vabbè, poi già mi ha ringraziato, non c'è problema. Faccio seccato, non mi ha riposo più. Vabbè, ciao. Ciao Marco, buonasera, ben sentitos. Niente, ma ce l'hai tu quella bazooka che avevi dato a Natalino? Te l'ha restituita per Luca? Bazooka? Perché io bazooka gli ho dato? No, me ne ricordo io, no? Perché c'è qualcuno, però già gliel'avevi data, perlomeno. Lui aveva un'antenna nera, a tipo bastone, bazooka. Ha detto che era la tua. Poi, cosa ne so qui? Non è che mi interessa molto di queste cose, però lui aveva detto che era la tua. Ah, così è. E quindi è stato zitto, non me l'ha detto. Cazzo diavolo, poi dice che non ho ragione io, a dire che la roba non torna mai. Così aveva detto quando noi eravamo lì, ha detto questa è di Marco, così aveva detto, poi non voglio entrare in polemica, non me ne affutti proprio, manco ballanticamera dello cervello. Ciao Luca, guarda, è possibile, ma pensa che io non me ne ricordavo assolutamente. Lui così ha detto, è così io ti sto dicendo. Quindi, era un'antenna che le avevi dato tu per provare inizialmente prima di piazzare l'antenna esterna. Poi non lo so se te l'ha restituita, se gliel'hai regalata, se se l'ha tenuta, non sono cacchi che a me mi riguardano. Visto che sennò sembro sempre io che mi metto a mezzo ai fatti degli altri. A me non ne parlo, è meglio soprattutto di queste cose. Vabbè, vedi un po' tu, sentilo, se, se effettivamente è così, a Luca le serve, così toglie quella che c'ha interna, capito? Eia, certo che c'è da dire che la bazooka sì, non ha stazionarie, che non ne ha, anche messa nel terrazzino lì a mezzo metro al muro, non ha stazionarie, però non irradia, cioè allora meglio quella con stazionarie, però irradia a lumaco. E dopo controllo, perché tanto c'ho tutto l'antro delle antenne, se c'è, se non c'è vuol dire che c'era lui. Va bene, non mi ha detto nulla però. Bene. E Giulio, sei sentito oggi? No, negativo, c'è Luca, nulla. Ok, chi è che vuole entrare? Avanti, buonasera. Sei 40 anni che non trasmetti? Guarda, io non ho capito, cosa ha detto Marco? No, qua non arriva proprio. Secondo me è anche 40 anni che non cambia antenna, perché qua è zero, non arriva. Tanto vediamo da dove stai parlando, da dove stai trasmettendo, noi siamo a Sassari, tu dove sei? Ah, sì, ad Alghero, ho capito, per quello che arrivi a me non arrivi a Marco. Appena arrivi. Ho capito. Vabbè, comunque buonasera, Claudio Sparviero da Sassari in compagnia di Marco Condor, poi c'è Luca che c'ha un'antenna interna però non ti sente. Vediamo un po' se ti ha sentito Marco, poi mi dici chi sei, come ti chiami. Guarda, qui arriva Radio 1, ogni tanto Radio 2, ma non più che altro Radio 1, è un segnale appena percettibile. L'hai sentito? Ti chiami Nicolò? No, non è comprensibile qua purtroppo, forse da te ha più segnale. Qua è Santiago 7, Marco. Da Cantona stai modulando di Alghero, Nicolò? Sì, io sono di origine algherese, i miei sono ad Alghero, quindi sei alla Pietraia praticamente. Ah, ecco, ho capito. Zona stazione lì, insomma, quelle zone. Ho capito. Va bene, no, arrivi, da me arrivi, mentre da Marco arrivi basso. Però ti ricordo che io per Alghero c'ho una zona molto, molto aperta. Praticamente ti vedo. Ho capito. Vedi un po', secondo me ti conviene costruirtela un'antenna, fare qualcosa, almeno per farti sentire a Sassari, perché noi adesso d'inverno qua sul canale 10 facciamo QSO la sera, capito, tutto qua. Va bene, avanti. Luca, ci sei ancora? No, Luca è già uscito. Controlla Marco, nel caso ce l'hai o non ce l'hai, chiedi informazioni, capito? Perché già gliela piazzo io a Luca, non ti preoccupare. La metto un palo piccolino, da un paio di metri, e vedi che la faccio irradiare con l'antenna. Eia, beh certo, se ha la possibilità di metterla sul tetto, no, lui dove può metterla, lo sai? Balcone, terrazzino. Vabbè, insomma, che riesca a irradiare, dai. Yeah. No, perché se si può raggiungere un tetto, tanto vale mettere un'antenna vera, non quella cagata, perché è una cagata. C'ha un'attenuazione con l'antenna, proprio è un carico fittizio, ecco perché non ha stazionarie. Sicuramente sarà così. Ah, poi peraltro io di quell'antenna avevo di due staffe, due cavallotti come li vuoi chiamare, ne avevo solo uno, l'altro l'ho perso. Dopo guardo se ce l'ho, ma probabilmente se come hai detto tu, allora però qua caspita, a prestare, poi la roba si dimentica e scompare, no? Poi dici che sono istigatore polemico, e così è. Scusa, non voglio mettermi negli affari tuoi, ma se è roba tua, se è vero che è così aveva detto lui, a lui non le serve, serve a Luca e si piazza a Luca, poi vedi tu, ognuno ha roba sua e fa quello che vuole, no? Giacelo io di 58, devo guardare su, capito? Bisogna talarla, a portare l'osmetro e cercare di talarla in due piano piano con pazienza e vedere un po', ma metterla fuori però, una un'altra fettina e si mette fuori. E vabbè, magari è coperta, bisogna trovare una posizione, bisogna fare prove, un baracchino acceso per la ricezione, tutto, rosmetro attaccato, capito? E vabbè, comunque, adesso vediamo, qualcosa si farà, qua c'è Santiago 9, magari c'è anche 9 da Marco. Allora, qua Smitter non ne ho, ma quando ce l'avevo arrivava circa 9, sì, praticamente 9. Solo che oggi Luca c'ha il radio bassa un po' la modulazione bassa. Aspetta che rispondo al telefono. Basta, al momento sta. Eia. No, appena, limite, parla appena più forte, certo. Purtroppo quella lui, è inutile avere meno stazionarie e poi non irradiare nulla, perché io la conosco bene quella bazooka, è una gaggada, scusando il termine. E sai cos'è lui? Io alla fine, dopo tanti anni di utilizzo, mi sono accorto che l'antenna della macchina va bene solo in macchina, a caso strano. Quando lo metti su ringhiere, su altre cose, è venuta la fa. Sì, la puoi fare risuonare grosso modo, anche con due di stazionarie, ma non sarà mai come in macchina. In macchina c'ho uno e uno, oppure uno sta a uno al centro banda, proprio non ha stazionarie. Se io la metto anche sul balcone, quello che vuoi, non è venuta la fa. Ehi, ha voglia. Invece in UHF è diverso, vedi? In UHF, l'antenna veicolare UHF, se la metto dentro casa, sul tavolino della cameretta, naturalmente li metto una base di metallo, no? Un quadrato di metallo da 60 cm di lato, no? O 50, una e due di stazionarie, non ti dà problemi, però quella del... non lo so perché quella del baracchino, sarà l'onda più lunga, ha bisogno di... non lo so, boh. Oh Marco, ma tu non ce l'hai perché una di quelle... da mettere tipo boomerang, qualcosa del genere, no? Allora, io ho una mini boomerang, mini, è caricata, ma non si riesce a tararla perché lo stilo è sempre troppo lungo, dovrei tagliarlo. Io già ne ho una disponibile, solo che cioè c'ha lo stilo caricato, non è nemmeno un full size, un quarto d'onda full size, è un quarto caricato, più il radiale è altrettanto caricato. Magari a tararla riesce a tararla, solo che i risultati, andrà sempre meglio di quella da macchina, gira. Si può provare. Ma io andrò a fare la macchina, la regalata, però non c'è il tempo, la parte. No, la boomerang full size, quella con lo stilo a un quarto d'onda, proprio lunghezza di quella 2,60 m, quant'è? 2,70 m, quella esce veramente bene. Questa però lo stilo quanto sarà? 1,5 m, seppure ci arriva. Se si riesce a talarla è grasso che cola. Basta un piccolo palettino e è grasso che cola. Poi se si riesce a mettere in alto, più alto è meglio è. Perché per quanto piccola e caricata possa essere, però il radiale deve radiare. Ma infatti io mi ricordo che io quando sono andato via a Pascoli inizialmente avevo messo un'antenna piccolina nel poggiolo, stazionaria non ne aveva, però il radiale va abbastanza bene. Quella sicuramente vuole tarata perché è per la... come si chiama? Sicuramente per la base magnetica, non so, comunque bisogna tararla. Guarda, l'unica buona è quella della Sirio, antenne con lo stilo in alluminio. Ce ne sono due, una con lo stilo in fibra di vetro e quella con lo stilo in alluminio. Quella con lo stilo in alluminio è già una signora boomerang, è veramente bella. Più volte volevo prendermela per tenerla per usi futuri, installazioni temporanee, poi ho lasciato perdere. Ma vabbè, Lu, di boomerang ce ne sono tanti tipi, non è che... Di boomerang ce ne sono tanti tipi. Io lì se c'hai il poggiolo, una mini Gran Premi, quella che c'è in radiali piccolini, solo col centrale lungo, ma sai come intesci dai chili? Non hai bisogno di dare a nulla, poca spesa, molto guadagno. Ma poi appunto il telefono 3 qua. Oh, comunque Claudio, c'è qualcuno che sta chiamando dal un po' basso che sta chiamando, guarda se è quell'amico di prima o se è Giuseppe. No, io non sento nessuno. Chi è che chiama? Avanti. Sento uno basso tutto impastato. Chi è Marco? Boh, ma non è Giuseppe, no, di Alghero. Tutto così l'ho sentito. Oh, dimmi Lu. Da parte, mezz'ora, senza radiali, 75. Allora puoi mettere tu una di quelle senza radiali. Anche con i radiali, ti metto un tubo da un paio di metri, giusto che abbia radialetti piccolini, non si può mettere. Aspetta, non c'è qua, ma a lei glielo chiedo quello che abita. Lugavo è avvenuto il negozio, non ti preoccupare di Lugavo. A futti dini. L'antenna ci serve, poi per il capo non ti preoccupare. Aspetta Claudio. Però cioè, se lui ha la possibilità di mettere una mezz'onda che è priva di radiali, quella è di lusso. Quella è di lusso, se poi la può mettere sul tetto è ancora di extra lusso, capito? Cioè è infinitamente mille volte meglio, 100.000 volte meglio della bazooka e anche della boomerang, della mini boomerang. È molto meglio la mezz'onda, non c'è paragone. Questo dipende da lui, se la può mettere sul tetto si mette sul tetto, se non vuole rompere scatole a nessuno, metterla sul tetto, se la mette nel suo poggiolo. Orientativamente parla con Sassari e parla anche con altre, anche fuori, secondo me, perché la posizione in cui è lui lì alla terroccia è buona. Oh, qua c'è la mattata di cavo qua a schiare, quando ho 58 schermato, 100 metri nero, 21, fai 22, ah, tagliato lo dicevi, Gavo, l'antenna ci serve, poi per il cavo non ti preoccupare, cavo, PL, tutta quella roba lì, no, non ce n'è problema, assolutamente negativo, ci serve un'antenna che funzioni bene, da mettere nel poggiolo, un tubo da 2 metri, capito? Telescopico, facciamo 2+2, to, giusto così, buono, attaccata alla ringhiera, sta fatta la ringhiera con i cavallotti e tu sei a posto, non avrai bisogno di buoni nuda sopra il tetto. Come è la te dove sta? C'è un buco, dalla parte della non lo so io dove abita Graziano. Non c'è problema, si fa un lavoro a regola d'arte, già lo sai che non so cubaticioni, si fa un lavoro a regola d'arte, ti metti un'antenna esterna come Cristiani, cavo, ti ho detto che non c'è problema, cavo, PL, quella roba lì c'ho tutto io. La piazza, bisogna trovarne una che costi poco. Quanto costava quella senza radiali, simile a quella che c'hai tu o Marco? Non meno di 75 euro la GBC, la mia costava 90 e la mezz'onda sui 75, se ti va bene 70, però caspita sono sempre 5,70 metri di, vabbè, compreso buce e tutto, 5,5 metri, 5,70. Però caspita, se lui può mettere già una mezz'onda e non c'è paragone con quelle antennine lì. Ma infatti te lo sto dicendo, sì, no, quel prezzo lì è troppo. Ah, quel prezzo lì, tu pareggio la matto, pago già. La faccio arrivare da fuori e pongo la matto, va. Un tubo e si è a posto. Aspetta, mi sta squillando il telefono. Vabbè, ma allora... Allora non c'è bisogno di una boomerang, cioè se si può mettere già una manzo fa, e allora perché usare bazooka, boomerang, mini boomerang che non rendono niente? Aspetta, chi è che stava chiamando da fuori, da Alghero forse, tutto in passato, chi è? Vabbè dai, io ho il punto che sono uscito, ciao Marco, ciao Claudio, ciao lui, io credo che lì dove sei adesso fossi sempre al monte, invece sei più giù, alla Tadolce, così è. No, poi, dai, io me lo e quindi se tu arrivi 9 circa con l'antennino interno, figurati con l'antenna sul tetto. Oh. Eia. Va bene, allora quello che chiamava davvero non ha più risposto. Dove era, boh. Comunque era tutto impastato. Vabbè, lui, se stai uscendo, buona passeggiata, dai. Divertiti anche alla faccia, da parte mia, voglio dire. O alla faccia mia, è uguale. Ciao lui, sono al telefono. Marco, lo senti a Giuseppe? Marco? Ehi, aspetta che sto girando la pasta. Che la signora te tu deve stare sdraiata, capito? No, perché sono al telefono con Giuseppe o Marco, però non arriva da me. Arriva tutto il passato, volevo sapere se arrivava da te. Guarda, io un segnale l'ho visto più forte, non so, non avendo smitter, io ho sentito qualcosa, ma era tutto, non si capiva niente. E ho capito, vabbè, spesso ho il telefono con lui, dai, un attimino Marco, gira la pasta, gira. Eia. Giuseppe, sì, adesso ti sento, adesso la modulazione è normale. Ma se lui non sente me è inutile. Oh, dice che ti sente lui. Basso, ma ti sente. Eia, ma anche via radio poteva dirmelo che mi sentiva. Adesso è normale la modulazione. Se era lui prima, se era lui, era completamente impastata. Ma evidentemente la zona sua, per dove sono io, è cambiata, capito Marco? Sicuramente. Mentre dall'altra parte lo sento bene, però qua no. Eia. Oh, comunque anche Valerio quando è liscio, cioè quando c'è 4 watt lo stesso arriva basso mi segnale, 5, 4 anche di segnale, forse anche 3. Vedi che fa molto il coso, no? Le performance. E invece quando arriva molto più forte. Aspetta, salutando a Giuseppe al telefono, Marco. Eia. Prova a farmi sentire la voce. Bella. Aspetta, arriva forte Alghero sta radio. Però io non lo sento, Marco, come mai? Che strano, mi ha fatto sentire la voce al telefono, lui a me mi sente e io invece no. Vabbè, aspetta un attimo, Sì, scusa Niccolò, mi sembra. Sono un attimino impegnato al telefono, ok? Poi riprendo, intanto Marco sta girando la pasta e sta preparando la cena. Marco, sono qua, capito? Quando hai finito chiamami che sono qua, cappa. Ma quale cena è cena? Questo è il pranzo. Alla fine vedrai che mi cucinerò per conto mio alle 3 di pomeriggio, così la finiamo in questa barbarie. Vabbè, io non volevo dire cena, ho detto, volevo dire pranzo, ho detto cena, già nella frutta. E vabbè, devi cercare di fare qualcosa, dai. Vabbè, continua a fare quello che stai facendo, io sono qua, ok? Eia, ancora 3 minuti, poi la devo colare. Poi no, Ma ho detto, ci sono tanti tipi di pasta, sempre al sugo, al sugo, al sugo, al sugo, proprio... Non è... Infatti asciugo, asciugo. Prendi un pezzettino di gorgonzola, da l'origa, e la sciogli fino in un tegamino con un pochettino di burro e te la condisci, ti prendi una scatola di tonno e te la condisci sempre col burro, non ci buttare l'olio della pasta, fa schifo. L'olio ce lo butti, il tonno lo metti in un piattino, lo schiacci col burro e ti fai una bella pasta col tonno, sempre pennette. Sono tante cose. C'è quel il pesto pronto, ti fai una carbonara. Ehi, mamma mia, già non si muore di fame, no? No, l'altro giorno la volevo fare al gorgonzola, come hai detto tu. No, non Abruzzo. La voleva diversa. Allora mi cucino per conto mio, i fornelli già ce li ho. Non mi mancheranno i fornelletti, di tutte le foglie, di tutti i tipi. E così è come dico io, me lo faccio. Poi. Come mai Giuseppe a me mi sente anche bene, mi ha fatto sentire la voce bella squillante al telefono e io lo sento basso basso qua, qualche ostacolo c'è? L'RF gain, attenuatori, non hai niente di inserito, no? Metti tutto a manetta, la ricezione. No, è tutto a manetta. Questo ha toccato un pulsante, cos'è questo? Boh, un bip sento, tipo questo, mi guarda. Ah, una cosa del genere, suonate è feo. Non è la bip migliore sta radio, È basso basso, fa tu. Capito? È più basso di tono e anche di volume, è molto basso di volume. Anzi ti dirò che si sente appena, per essere un bip. Oh, sì, vabbè. Però è segno che è un baracchino. No, la modulazione è bella, bella squillante, sono con la potenza bassa bassa. Tanto ci sentiamo, va bene. Arrivo anche al Ghero così, figurati. Mi dispiace, non sento Giuseppe, porca miseria. Come mi pare anche Giulio non li sente quelli di Alghero, o sbaglio? Sì, non li sente, no, non li sente. Ok, dai, vai, girati, preparati la pasta, dai, intanto io sto mandando due messaggi su WhatsApp a mio nipote. Già sono qua comunque, appena finito. Eia, un attimino, UTC, Pomponio, ci sei? Attenzione, Antonello Pomponio, non c'è, a WhatsApp tanto non risponde mai, ma voglia mandare messaggi, è come che non ce l'abbia. Bah, è proprio come che non ce l'abbia. Sì, poi dice che mi ha mandato una foto l'altro giorno, non mi ha mandato proprio niente, ma dubito che lo sappia usare pure. Così è. Eia, comunque Luca è uscito, ha salutato, è uscito. Io dicevo, ma se c'è la possibilità di mettere un'antenna a mezz'onda, perché mettere antennini, bazooka, tutta roba che non serve a nulla? Ma infatti basta mettere un'antenna come Cristiani. Cioè, se c'è la possibilità, sì, se non c'è la possibilità, allora si ripiega su antenne piccole. Piccole da balcone, così. Certo, non è quelle piccole. Comunque che arrivi quasi 9 qua, almeno ricordo che arrivava 9. Da dove lui è già molto, vicino a Graziano, 9 è già molto con questo antenino interno o com'è sulla ringhiera. Vabbè, ma lui se c'è al posto ed è bello aperto, vabbè. Bene, anche ieri, cosa ho fatto ieri? No, ieri sono andato dal medico a ritirare ricette, a prendere le medicine, da Lidl, quindi non sono entrato per quello. Ce l'avate ieri? Guarda, ieri ho chiamato, però non ha risposto nessuno. Non ha risposto nessuno. Poi mi stavo guardando la partita dell'Italia nel 21, adesso stasera, vabbè, alle 8:30, che ne so, le 7:15, alle 8:30 c'è la partita dell'Italia grande, quindi mi guarderò anche quella. E basta, tu cosa devi fare? La giornata sembra così, ha valato nuvoloso è. Meglio però, meglio. Perché uscendo in macchina ci stava bene, non c'era caldo. Siamo andati da Oshan a prendere due cose, due proprio contatte. E vabbè. Mimì, sta arrivando la pasta, mi esce a vedere che porcheria ha fatto mia madre. Ehi, che porcheria, già va bene. Ma la giardina già è buona. No, vabbè, già è buona. No, ma ce la facciamo anche al pesto, quel pesto Tiguglio pronto, Barilla, buonissimo, il pesto classico. Poi c'era anche un pesto alle noci. Un pesto alle noci, praticamente un pesto giallino, no? Fatto con le noci, la fine del mondo. Mamma mia, buonissimo, non mi ricordo più la marca però. Vabbè, ma il pesto classico è pesto, basta, pesto genovese, lo compro alla Conad, buono, barattolini, è ottimo, è ottimo. No, stasera c'è mia figlia, c'è poco di cose da mangiare. Sono uscito alle 5 oggi, quindi sono già ai fornelli, mamma e figlia, e c'è Maria Grazia, stasera mi c'è bendeggiare. Occhio a non ingrassare, mi. Oh, e finisce, avevo rimanito 8 kg e mi sembra che qualche chilo l'ho ripreso, perché ultimamente si stava mangiando troppo, si stava mangiando troppo. Capito, qualche bicchiere di birra fresca e tutte cose, adesso rinizio nuovamente solo acqua e molta insalata, prima che sparisca l'insalata, la verdura di stagione, dai. Ehi, vabbè, ma tu ti muovi abbastanza, quindi non credo che ci sia problema. No, tutta la mattina tornando, mi domani mattina, chitto, carbonati, devo piazzare la maschera da bagno, stasera l'ho svuotato, domani mattina vado a comprarlo e piazzato, capito, però siccome ero solo, domani mattina viene quello di fronte a me per scenderglielo e aiutarmi a metterlo su, poi mi cambio i flessibili perché anziché l'80 l'ha voluto la 60 e quindi sono i flessibili corti che erano da 30, li metto da 60 nuovi. E lo faccio caricare, lo provo, mi volto dalla pila e poi me ne vado. Bene, bene. Dai, adesso metto a mangiare, ma non è un granché nemmeno. Lasciamo perdere. Mangia io, mangia chi ti mangia. Mangia, mangia, mangia, già sono qua, non ti preoccupare. Ok? Chiamami appena è finito. Tanto dopo verso le, che ore sono? Le 7:20 e verso le 8:15 devo mangiare il cane, dai, già sono qua. Ti ricordi quando una volta ti facevo anche il routino in diretta? Ah, per digerire. Ehi, qua già lo puoi fare il routino. Sul canale 10 è tutto ammesso. Chi era? Ho sentito bisbigliare sotto. Chi era? Giuseppe. Chiami in giro. Mi sembra che la tolgo da qua, l'antenna la metto davanti. Ma non... è brutta davanti, non voglio che si veda. Perché è dietro la casa, capito? Per quello che, anche se c'è un Sassari proprio di fronte, proprio l'ingresso, via Vendola, tutte quelle zone lì, sono davanti a me. Se tutti sento basso, basso, basso, l'antenna è a 2 metri da terra, forse 3 metri dai da terra, quindi è coperta anche dagli alberi ed è sicuramente la parte di Alghero dove sei tu mi copre. Vuoi fare le prove con Valerio a vedere? Non l'ho più sentito, attento Valerio. Uia, non ha più voglia nessuno. No, mi ha mandato un messaggio l'altro giorno, che stava ascoltando qua sul 10, mi ha detto buona cena, poi c'era gente, mi sono dimenticato di rispondergli, maleducato questo Claudio, quindi sicuramente già lo sai, siamo qua, solo che è un periodo che non è molto in forma, forse c'è ancora un po' di caldo, e immaginate, non ti preoccupare. Però rispetto a prima, dai, caspita, da quando sono partito, anche a Milano c'era un caldo africano, è stato un mese e mezzo di tempo costante, di caldo costante oltre 30 gradi, una cosa mai vista. Di solito qui siamo soggetti a maestrali, no? Invece qua tra giugno, luglio, insomma, già lo sai, no? c'è stata questa cappa, questa bolla di calore che è perdurata un mese e mezzo almeno. Già lo so, ma mangiando stai, mangia io. Sì, non è nemmeno un granché, sono di una gaggata mi. E mangia, mangia, mangia, e ti va di bene, ma manco liscio. Ne mangio, beh, hasta 2 ore mi manda rispondisci WhatsApp, liscio. Beh, non importa, per carità. Prima legge e poi ti rispondo dopo 10 minuti. Avanti non mandino la mano. Ma pensa che quando mando i messaggi a Pomponio su WhatsApp passano giorni e giorni e giorni prima che li legga. Come non averne? Io lo so, ce l'ho anch'io anche me lo su WhatsApp. Beh, prima Vito, questo vive col telefono, cazzo, ci dorme col telefono. Leggi e stai 2 ore a rispondere. Beh, no, te lo mandino a mare, c'è la biglialluce. Ma lui scrive o manda messaggi vocali? Perché io a scrivere sono lento, quindi faccio prima a premere il tasto e parlare. No, no, non manda messaggi vocali. Sta scrivendo, io per scrivere, potrei gli occhiali, mi sto già diventando mezzo coccomane. No, io faccio prima a parlare, anzi grazie a Dio che si può parlare lì su WhatsApp. Cioè mi viene in mente la risposta, premo e ti dico, cioè a parole faccio prima, non c'è paragone. Beh certo. Oh, mamma di turchi, ma questo sugo non è un granché. Non so che sugo abbia messo, ma non è. Lo sto mangiando proprio per disperazione, lo sto mangiando. Vabbè. Mangia, mangia tranquillo, tanto sto messaggiando. Un figlio handicappato. È doppio rum, è più entrato. Cosa? Cioè alla fine non sta entrando nessuno. Io compreso. Vabbè, già stai entrando anche tu. Poco, dai. Ancora, già ce n'è tempo. C'è tutto l'inverno per entrare al baracchino. L'importante è che siamo qua, dai. Che sentiamo sul 10 e così riprendiamo piano piano. L'MRM. No, comunque, senza scherzi, oggi ha superato se stessa, mamma. Mamma mia. Ma non è il sugo è che non è buono. Oh. Perché non lo fa buono mamma sugo? No, mia moglie, la scarpetta mi voglio io. No, di solito sì, ma oggi non lo so perché o era roba conservata, ma non mi convince assai. Ti dirò che la sto mangiando a fatica un po'. Vabbè, finire la devo comunque, sennò poi mi tocca mangiare altro e boh. Allora finiscila, quando l'hai finita me ne chiami, gappa. Marco, se ci sei sentiamo dopo che preparo la pappa al cane, ok? Eia, io sto finendo di mangiare, a dopo, ciao. Eia, dai, quando ho finito poi ti richiamo, ciao.